si va verso una nuova restrizione. Ieri c'è stato l'incontro della cancelliera Angela Merkel con la conferenza dei presidenti dei diversi Länder, e con questo si è deciso che si dovrà necessariamente arrivare a una sorta di lockdown, chiaramente non come è stato quello che abbiamo avuto a marzo, un pochino più leggero. Non chiuderanno le fabbriche, non chiuderanno le scuole, chiuderanno soprattutto le attività di tipo ludico, quindi non ci saranno bar, ristoranti, non ci saranno neanche le palestre aperte, e chiuderanno anche gli sport dilettantistici. In realtà, anche se poi sono continuati e continuano a essere permessi gli incontri comunque tra persone, ci si potrà vedere al massimo di 10 persone all'interno di una casa, membri di due famiglie, massimo 10 persone, si potrà continuare a vedere con gli amici. È una sorta di mini lockdown che non incide più di tanto sul settore produttivo complessivo della Germania, ma sicuramente mette molto in crisi tutti i piccoli imprenditori, tutti quelli che hanno piccole attività, tanto che la Camera di Commercio comunque tedesca si è irritata molto per questo tipo di scelta, perché poi anche lo stesso Robert Koch Institute, che è il punto di riferimento per il governo per quello che riguarda le misure da prendere, sostiene che non è nei pub e nei ristoranti che c'è questo grosso punto di infezione, quanto invece forse più nelle scuole e sicuramente nelle strutture di riposo e di cura. Sembra che le misure e anche il dibattito sia simile a quello italiano, però mi pare di capire che questo avvenga con una curva epidemiologica ancora più bassa rispetto a quello dell'Italia, cioè avvenga un po' prima. Avviene un po' prima proprio sulla scorta di quello che avviene però negli altri paesi. In realtà poi questa decisione è stata presa insieme da Angela Merkel e Emmanuel Macron, cioè viene da una strategia che due paesi hanno messo insieme. Qui sicuramente il numero di casi, così come il numero complessivo di vittime, è sicuramente molto più basso che quello italiano. Chiaramente si è alzata la curva che vediamo dal Robert Koch Institute, ci dice che c'è un incremento esponenziale che sicuramente deve far riflettere. Attualmente i dati di ieri complessivamente dall'inizio della pandemia sono state 481.000 le infezioni, sono 10.272 fino adesso le vittime, ma c'è una differenza molto grande anche tra le diverse zone del paese. La situazione di Berlino non è uguale alla situazione in Sachsen-Anhalt, per esempio, dove c'è uno dei più bassi numeri di infezione, un'incidenza del 43,2 ogni 100.000 abitanti per 7 giorni, che era il famoso indice 50 che Angela Merkel voleva considerare proprio per stabilire nuove o meno misure, ma nella maggior parte dei land questo indice è ampiamente superato, si arriva al 100 infezioni ogni 100.000 abitanti per 7 giorni consecutivi, e questo fa presumere, come ha detto la stessa Merkel ieri in conferenza stampa, che in poche settimane comunque si potrebbe arrivare a una saturazione del sistema. Il punto centrale però di questo è una dichiarazione che è venuta dal Robert Koch Institute, che è quella che dice che il 75% delle infezioni non sono più rintracciabili. Non puoi capire da dove sta nascendo l'infezione, e questo porta alla necessità comunque di bloccare in qualche modo, per poter frenare almeno parzialmente, ridurre il numero di questa incidenza e ricominciare a vedere se le infezioni sono tracciabili. Il problema è che alcune delle misure difficilmente saranno incisive, le fabbriche restano aperte. Sarà uno dei temi anche di discussione. E proprio su invece la questione delle misure economiche e sociali, Merkel, se non sbaglio, ha annunciato uno stanziamento di 10 miliardi, visto che è un tema che da noi viene molto dibattuto, il sostegno alle attività che devono chiudere, ai lavoratori che si trovano fermi. In Germania come viene vissuta questa tematica? Diciamo che sulla scorta di quanto è successo nella primavera scorsa, e quindi dell'ottimo funzionamento, potremmo dire, dei sistemi di aiuto, non c'è grossa preoccupazione. Non ci sono soltanto 10 miliardi stanziati per questa emergenza di questo momento, c'è tutto un sistema sociale che ovviamente funziona e continua a funzionare, che quindi rende un pochino più tranquilla la popolazione. I 10 miliardi saranno distribuiti attraverso un prestito ponte per le piccole imprese, anche questo era già stato implementato nella primavera scorsa, e una sorta di aiuto invece per imprese con un maggior numero di dipendenti. Sono prestiti molto facili in realtà da ottenere, non vengono chieste molte garanzie, questi funzionano soprattutto per tutti i piccoli lavoratori lavoratori autonomi, quindi chiunque presti la propria opera, e questo va dagli operatori della cultura, ma anche molto spesso nel settore stesso della ristorazione si lavora in self-standish, in maniera autonoma. Si ottengono prestiti fino a 10.000 euro per i singoli, non necessariamente da restituire subito, ci sono i prestiti per le imprese fino a 500.000 euro e poi non restituirli per i primi 2 anni e poi nell'arco di 10 anni continuare a restituirli. Se le misure funzioneranno come hanno funzionato nella primavera scorsa, non ci dovrebbero essere grossi problemi. Tieni conto che per adesso si parla di una chiusura di un mese, fra 15 giorni verranno riviste tutte le misure, si vedrà se c'è stato un calo di questa curva delle infezioni, eventualmente verranno praticati anche altri sostegni economici. Merkel però aveva avvertito, questo il mese scorso, che non ci saranno gli stessi soldi che ci sono stati a primavera e che quindi bisognerà pensare che se c'è un lockdown definitivo, totale, come già c'è stato, forse in questo caso economicamente bisognerà vedersela diversamente.